Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati da Francesco Galante, nuovo appuntamento con l'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi abbiamo con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora parliamo di Ryanair, perché sono successe un po' di cose negli ultimi tempi. Sì, sono successe, ma soprattutto Francesco direi che questa volta stanno succedendo, perché il comunicato che anche ADICO si è affrettato a diramare non è altro che un preludio di quello che accadrà dal 21 settembre fino alla fine di ottobre, ed esattamente riguarda la compagnia aerea Ryanair, una compagnia aerea che tutti sappiamo è la principale compagnia low cost, il quale ha deciso di cancellare circa un quarto dei voli, proprio perché si trova in difficoltà di equipaggio, di comandanti, e anche perché è costretto a far fare le ferie al loro personale, che fino ad oggi sembra sia stato spremuto e quindi non ha potuto beneficiare di un riposo. Ecco, quindi proprio per una impossibilità di avere dipendenti al lavoro questa. Sì, ecco, stavo guardando un attimo il numero, si parla di 2000 voli e 400.000 passeggeri e richieste di risarcimento, che anche l'Adico sta iniziando a organizzarsi a fare per i prossimi giorni, che probabilmente supereranno i 25 milioni di euro. Ricordiamo che la Ryanair è una compagnia irlandese, e proprio perché il personale fino ad oggi è stato spremuto a tal punto che non è riuscito a far ferie, e questa fuga di comandanti e di personale verso altre compagnie perché si ritrovano ad essere sottopagati ha cominciato a mettere in ginocchio la compagnia. Ma ricordiamo anche che non c'è solo questa grana che rischia di abbattersi sulla Ryanair, in quanto c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che preoccupa i vertici di Ryanair, perché i giudici di Lussemburgo hanno autorizzato i dipendenti dell'azienda, che sono assunti in giro per l'Europa con contratti particolarmente depotenziati, a fare causa davanti ai tribunali nazionali proprio per i loro stipendi e le loro, insomma, corresponsioni. Ecco, quindi le prospettive sono di disagi notevoli, di voli cancellati ancora per un po', fino al 31 ottobre se non sbaglio. Sì, certamente qua non si può parlare solo di indennizzi che possono arrivare a 40-50 euro al giorno, ma dobbiamo parlare anche di quelli che possono essere richieste di risarcimento per persone che hanno prenotato o che subiranno dei disagi o dei disservizi, oppure anche altri tipi di problemi per chi magari viaggia per affari, perché chiaramente annullare voli, spostare o posticipare chiaramente creano degli effetti che secondo me non si può solamente pensarli come indennizzo giornaliero, ma bisogna anche immaginarli di più ampia scala. Comunque è sicuramente un effetto che nei prossimi giorni, come abbiamo detto, coinvolgeranno quasi 500.000 di passeggeri, e anche in Italia si parla, insomma, di voli cancellati nei principali aeroporti italiani. Volevo chiederti, se io ho prenotato un volo che è per il 20 di ottobre, quindi tra un mese, e so già che verrà cancellato, posso comunque chiedere un rimborso oppure no? Allora, generalmente le compagnie, quando accadono che ci sono già un mese di tempo, ti propongono anche una soluzione alternativa, magari anticiparlo o posticipare di un giorno. Se proprio non si riesce, certamente bisogna pensare a richiedere un risarcimento, ma anche non solo ai soldi che abbiamo speso dei biglietti, ma un indennizzo per il disagio che abbiamo detto una persona può essersi trovata ad affrontare. Un comportamento che sicuramente farà scuola, perché annunciarlo oggi in previsione di quello che sarà il prossimo mese e mezzo certamente non farà bene a una compagnia che, insomma, ha investito molto nella propria immagine e ha creato anche in questi anni ha creato anche molte rotte nuove. Certamente il consiglio che noi diamo è quello anche di collegarsi nel sito dell'ADICO, come in molti altri siti, o anche nello stesso della compagnia aerea, perché c'è già l'elenco dei voli, la lista dei voli che sono stati cancellati, sulla base della quale poi ognuno potrà organizzarsi per tempo per trovare delle soluzioni o, come detto, richiedere dei risarcimenti. Però ecco, evitiamo di arrivare subito in aeroporto e pensare di rimanere a terra e non sapere cosa sia successo. E a tal proposito ricordiamo che c'è sempre lo sportello Vacanze Rovinate, che insomma offre anche questo tipo di consulenza l'Adico tutto questo periodo. Certo, allora ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it per trovare poi anche i contatti per chiamarvi. Grazie all'Adico, grazie al presidente Carlo Garofolini, a tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.